A bordo campo di Dario Ricci. Ingegneri per box di Formula 1 cercasi. Beh, l'annuncio è davvero singolare, ma potrebbe essere questo. Se lo dovessimo pubblicare su un qualsiasi giornale o sito web, indicare quello che è un progetto davvero interessante legato alla Formula 1 e di cui vogliamo parlare oggi a bordo campo. Si chiama Red Bull On Stage ed è sviluppato insieme alla scuderia Toro Rosso per il secondo anno nelle aule di quattro università italiane, ma poi soprattutto attraverso il sito redbull.it/tororosso, ed è aperto di fatto non solo a tutti gli appassionati di Formula 1, ma soprattutto a quegli studenti che in un box di Formula 1 potrebbero anche coltivare le loro esperienze ingegneristiche. Allora ne parliamo oggi con due ospiti davvero particolari: Andrea Ziglioli, National Field Marketing Manager di Red Bull. Benvenuto Andrea. Buonasera a tutti. E Matteo Piraccini, che è Head of Gearbox and System. Matteo, ringraziandoti, spiegaci pure qual è il tuo ruolo in un box, perché detto così all'inglese può essere anche complicato, magari nei fatti anche più difficile. Beh, assolutamente, assolutamente. Il mio ruolo è più che altro negli ultimi anni è dedicato all'area progettuale. Innanzitutto buongiorno a tutti, non ho ancora colto l'occasione per salutare tutti i radioascoltatori. Niente, come dicevo, è più coinvolto nell'area progettuale perché sto mettendo a frutto gli anni spesi in pista che hanno fatto parte del mio percorso formativo, dove ho imparato a avere a che fare con problematiche quotidiane in ogni evento legate soprattutto ai sistemi, all'affidabilità di cambio idraulica, ed è quella la mia, diciamo, competenza principale, anche se negli anni ne ho coltivate altre. Ecco Matteo, toglici una curiosità, visto la tua competenza specifica, quanti siete in un box a mettere le mani su quei gioielli della Formula 1? Ma a dirti la verità, in un box diciamo le figure sono tra le più disparate. Ci sono tanti ragazzi, tanti tecnici che mettono più che altro le mani attorno alla vettura e quindi a tutti i componenti, sospensioni, cambio, eccetera, eccetera. Io faccio parte invece di quella categoria che, tra virgolette, non usa le mani e che sovraintende quelle che sono le operazioni, perché faccio parte della schiera degli ingegneri che mettono a frutto le loro competenze negli anni e che, bene o male, devono cercare in un tempo minimo di risolvere le problematiche che possono nascere in ogni momento durante un weekend, problematiche legate più che altro all'affidabilità. Quindi insomma lavorate in tempo reale, nel senso in collegamento con macchine e box, siete in grado di proporre soluzioni immediate oppure li mettete là con matita e squadra, dai? Assolutamente sì, anzi pochi credono a questo, perché è vero, in Formula 1 bisogna essere sempre in pista per risolvere le problematiche, ma la pista in Formula 1 non è solo la pista vera e propria. In Formula 1 si lavora durante il weekend anche a casa per dare il supporto in tempo reale a tutto questo genere di problemi, che non è solo progettazione, ma che è anche cogliere nell'attimo il succo del problema per poter reagire con quello che si ha. Andrea Ziglioli, Matteo Piraccini ci diceva appunto di questo gruppo di ragazzi altamente professionalizzati, neanche a dirlo, che intervengono in queste diverse situazioni. Direi che quello è l'obiettivo ideale in cui potrebbe inserirsi il potenziale vincitore, i potenziali vincitori del progetto Red Bull On Stage. Ecco, vuoi spiegarci sinteticamente in cosa consiste? Sì, allora, il progetto Red Bull On Stage nasce fondamentalmente dalla collaborazione tra Red Bull e la sua scuderia di Formula 1 italiana, ovvero scuderia Toro Rosso. Red Bull On Stage è quindi un'iniziativa finalizzata a mettere le ali a nuovi professionisti della Formula 1 e vuole offrire 3 mesi di formazione in scuderia Toro Rosso, con la grande opportunità quindi di imparare live e dimostrare il proprio talento. Quindi insomma veramente un'opportunità favolosa per chi unisce capacità ingegneristiche e passione per la Formula 1. Tra l'altro, già nel primo anno in cui avete lanciato questa proposta, il sito web è stato subissato di curricula, no? Non mi aspettavo niente di diverso. Sì, assolutamente. Nel 2013 abbiamo raccolto l'interesse di migliaia di giovani con circa 70.000 accessi al test online, che era appunto il passaggio iniziale della selezione con cui si accedeva poi al secondo step, che era quello delle interviste. Quindi 70.000 adesioni nel primo anno, e quest'anno appunto siamo in corsa per cercare di offrire una nuova grande opportunità agli studenti, e vedremo un po' come va anche la loro risposta. Ecco, 4 saranno i prescelti, e cui verrà garantito uno stage retribuito e comprensivo anche di alloggio all'interno della scuderia Toro Rosso a Faenza. Ecco, volendo approfittare di A Bordo Campo per dare un aiutino ai candidati, no Andrea? Cerchiamo quali sono le caratteristiche che cercate, sia dal punto di vista delle competenze tecniche, ma penso che insomma ci vuole anche pure gente sveglia, no? Sì, assolutamente. Come dicevamo, ci rivolgiamo a studenti o a neolaureati in campo ingegneristico, e attraverso questo processo di selezione diciamo che andiamo a selezionare delle persone che abbiano le competenze ma anche le caratteristiche per entrare in questo mondo altamente dinamico. Fondamentalmente abbiamo identificato 3 step per identificare le persone, 4 candidati, 4 vincitori. Il primo, come dicevo, è un test online sul sito redbull.it/tororosso, dove saranno appunto misurate intelligenza, logica, ma anche determinazione e intraprendenza. Ne selezioneremo quindi 10 per reparto attraverso il nostro ufficio risorse umane, e questi 10 dovranno poi sottoporre un video di 3 minuti. Un'altra volta, in questo video di 3 minuti, dovranno esprimere sia la loro passione, ma anche le loro competenze, le loro affinità con questo mondo. L'ultimo passaggio, andremo a selezionare i 3 migliori per reparto, e questi verranno invitati a Faenza, quindi scuderia, dove ci sarà una vera e propria intervista, un vero e proprio assessment, per selezionare il vincitore, cioè il candidato per ogni reparto. Beh, insomma, lo sentite dal tono molto professionale di Andrea Ziglioli, che al di là del tono scherzoso con cui lo raccontiamo, è un percorso estremamente serio, e che non è un reality Formula 1, è una vera e propria opportunità formativa, anche perché, così come è già capitato, uno dei candidati selezionati sta tra l'altro continuando la sua collaborazione con la scuderia Toro Rosso con un contratto a tempo determinato, no? Questo come eredità preziosa della prima edizione. Completare questo percorso, Andrea, ci sono anche delle lezioni che state svolgendo e che si terranno fino a metà aprile nelle maggiori università italiane: Perugia, Modena, Catania e Udine. E Matteo, sei anche, oltre che nel lavoro nel weekend e non solo, in collegamento con i box, sei anche coinvolto in queste lezioni. Ecco, cosa vi chiedono principalmente i ragazzi quando li incontrate, diciamo, dal vivo? Quali suggerimenti vi chiedono e quali sono le curiosità principali? Personalmente ho incontrato più di una volta ragazzi che mi hanno fermato all'università per chiedermi appunto come fare per poter entrare in questo mondo. Io sono sempre stato molto, molto onesto e trasparente. Per entrare in questo mondo ci vuole innanzitutto, come diceva Andrea, una grandissima competenza dal punto di vista tecnica, perché quello è lo zoccolo duro su cui si deve costruire il castello della propria professionalità. Detto questo, in questo mondo ci si entra solo se si è proattivi e decisamente appassionati. Proattività è la parola più importante, perché ogni giorno che si affronta è un giorno differente, e ci si alza la mattina senza avere veramente le idee chiare di quelle che sono le problematiche che si affrontano, senza avere le idee chiare di come dovranno essere affrontate e della soluzione. In questo mondo si fa carriera se e solo se non si vedono problemi, ma si vedono solo soluzioni ai problemi. E questo è quello che dico ai ragazzi: se volete venire a lavorare qua, in questo mondo, preparatevi, perché bisogna dedicargli anima, passione e competenza. Direi lezione importante, permettimi di dire, Matteo, Andrea sarà anche d'accordo, e non solo per entrare nella Formula 1, soprattutto di questi tempi. Matteo, aiutaci anche, siamo vicini alla chiusura della nostra chiacchierata, toglimi un dubbio, tu che ci metti le mani su questi gioielli, per favore restituiteci il rumore dei motori di Formula 1, questi turbo, oltre a regalarci finora gran premi magari anche non entusiasmanti, ci hanno pure tolto quel piacere. Come se ne esce? Ma sì, Marco, se io ti dico la verità, la prima volta che ho sentito questa melodia, lasciamelo dire, questa melodia, sono rimasto un po' frustrato anch'io, ma dopo le prime 2 o 3 sessioni in pista, quando ho cominciato a sentire il fischio della turbina, la passione mi ha portato veramente a tornare ad amare questo nuovo rumore, perché comunque è un qualcosa di nuovo ed è un qualcosa dal punto di vista tecnico talmente elevato che è inutile, io lo amo comunque. E allora anche noi tifosi, per carità, non abituiamoci sempre a sentire la solita cosa, il rimpianto del rumore, insomma la Formula 1 è tecnologia, sperimentazione, innovazione, quindi ben vengano anche suoni diversi da quei gioielli di ingegneria. Andrea Ziglioli, gran chiusura con te, un ultimo appello ai candidati, ancora qualche idea da mettere in pista per provare a vincere questo contest d'eccezione? Innanzitutto dobbiamo comunicare che abbiamo ancora due lectures che terremo nelle università italiane, due sono già state fatte con grande successo, la prima all'Università di Perugia e la seconda all'Università degli Studi di Modena, ma abbiamo appunto ancora due grandi appuntamenti, il prossimo sarà il 10 aprile presso l'Università degli Studi di Catania con l'ingegnere Francesco Pancrazzi. E l'ultimo appuntamento sarà il 14 aprile presso l'Università di Udine con l'ingegnere Marco Arini. Quindi il mio invito è di attendere queste due ultime lezioni e di scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa, ma anche il test online sul nostro sito. E allora l'appuntamento per tutti i candidati è su redbull.it/tororosso. Grazie a Matteo Piraccini, Head of Gearbox and System, grazie per essere stato nostro ospite, Matteo. Grazie a voi, a presto. E grazie ad Andrea Ziglioli, National Field Marketing Manager di Red Bull. Grazie a voi, un saluto a tutti. A bordo campo. Giorni difficili quelli di Expo 2015, beh, lo sapete bene, i ritardi nei lavori, le inchieste che sfiorano al momento anche appunto gli stessi lavori relativi all'esposizione universale che Milano ospiterà da qui a poco più di un anno, ma Expo 2015 sarà anche sport inevitabilmente per i temi che tratterà, perché al centro dell'Expo ci sarà l'alimentazione, la nutrizione e quindi parallelamente, conseguentemente anche il tema dello sport e del tempo libero avranno un peso importante e decisivo e chiaramente anche il futuro dell'area Expo che ospiterà a Milano tutti i padiglioni dell'esposizione universale sarà in buona parte un futuro legato proprio allo sport. E allora oggi a Bordo Campo proviamo a fare un focus sul rapporto tra esposizione universale e sport, proprio provando a immaginare quello che sarà fra un anno, ma anche quello che sarà il giorno immediatamente dopo la chiusura dell'Expo. Se ne è parlato in questi giorni in un convegno qui a Milano all'Arena Civica Gianni Brera, lo sport ai tempi dell'Expo, promosso dall'ASI, dalle associazioni sportive e sociali italiane, e si è cercato appunto di guardare a quello che potrà essere il futuro di quell'area, un'area che, lo ricordiamo, dal punto di vista edilizio interesserà 490.000 metri quadrati, cui potranno essere aggiunti ulteriori 30.000 metri quadrati di housing sociale. Il 56% dell'area sarà destinato nel dopo Expo a un parco tematico legato agli argomenti lanciati proprio dall'esposizione universale del prossimo anno, ma dovrebbe esserci anche un nuovo stadio per il quale ha già manifestato il suo interesse il Milan, e una vera e propria cittadella dello sport che colmerebbe così una lacuna cronica di Milano. Inevitabilmente il tema Expo, il tema sport, ha chiamato in causa il tema più generale della candidatura italiana ai grandi eventi, che siano essi l'esposizione universale o le Olimpiadi. Sappiamo prima la diatriba Roma-Milano, poi probabilmente la nuova discesa in campo di Roma per le prossime edizioni dei giochi per il 2024. Bene, proprio su questo tema è intervenuto nell'ambito del convegno Lo Sport ai Temi dell'Expo il presidente del Comitato Olimpico Italiano, italiano Giovanni Malagò, secondo me in modo opportuno, sottolineando che piuttosto che non farli questi eventi c'è la possibilità concreta, fattiva, e dobbiamo impararlo anche noi italiani a farli bene, a farli in modo trasparente e effettivamente costruttivo. Allora sentiamo un primo passaggio dell'intervento di Giovanni Malagò. Non ci scriviamo più a niente? Non ci candidiamo più a nulla? Ci chiamiamo fuori da qualsiasi attività che, attenzione, se fatta bene, realizzata bene, costruita bene, può portare beneficio al sistema paese. Cioè i nostri figli non dovranno mai più ospitare un grande evento. Noi sì, loro no. Ma che sconfitta è? Ma che umiliazione diamo alle nuove generazioni? Ci abbiamo messo la faccia. Se non si realizza, o se non si fanno certe cose, scusate il termine elegante, ci sputtaniamo tutti. Se l'Expo non dovesse fare bene, automaticamente non può neanche pensare il nostro paese di candidarsi per le Olimpiadi, perché fa parte di quella credibilità di cui viene meno. Importante questo passaggio. L'Expo sarà anche vetrina del sistema Italia e su quell'altare verrà esaltata l'eventuale candidatura italiana ai prossimi giochi estivi del 2024, oppure verrà bruciata. Sì, perché il modo in cui verrà gestito l'Expo milanese è strettamente connesso a quello che sarà il futuro di questo tipo di eventi in Italia. Ma al futuro è legato anche, come dicevamo, il dopo di quell'area importante dal punto di vista edilizio. Ebbene, il presidente Malagò ha dato sostanzialmente il supporto, il via libera del CONI per realizzare una cittadella dello sport che preveda sì lo stadio di calcio, ma anche una serie di impianti, mi vengono in mente la piscina olimpica e anche un palaghiaccio per tutte le attività del ghiaccio, oggi molto spesso penalizzate in una città dove pure hanno grande tradizione come Milano, e che quindi una cittadella olimpica che possa quantomeno racchiudere questi impianti e poi rimanere come concreta eredità dell'Expo 2015. Sentiamo ancora Malagò. Un evento che va oltre, scusate lo dico, la realizzazione nell'area Expo, perché sappiamo benissimo che qui si tratta, la grande scommessa non è solo quante persone si portano, ma soprattutto quante persone, oltre a visitare l'Expo, fanno qualche altra cosa a Milano, nella Lombardia, nel nord Italia, forse in tutto il paese, proprio per lasciare la migliore eredità. Faccio il tifo che, finito l'esposizione universale, si trovi un punto comune, un gioco di squadra, in cui io volentieri ci metto la faccia come CONI, comune, provincia, regione, per lasciare in quell'area, non so se tutta l'area, forse sono un megalomane, ma in parte un'eredità di sport e di valore aggiunto per il sociale di Milano e di tutta la Lombardia. Perché secondo me sarebbe proprio la legacy migliore che può dare l'esposizione universale. E beh, come non essere d'accordo con Giovanni Malagò, dicevamo il cuore di questa cittadella sportiva dovrebbe essere il nuovo stadio. Per ora c'è stata la manifestazione di interesse del Milan, che ha fatto sicuramente contento Roberto Manoni, il presidente della Regione Lombardia, milanista sfegatato, ai lui non è certo la stagione più adatta e più felice per un tifoso milanista, ma magari l'idea del nuovo stadio può far pensare a un futuro decisamente diverso. Sentiamo allora cosa ha detto ai nostri microfoni proprio Roberto Maroni. Lo sport è direttamente collegato ad Expo perché sono gli stili di vita. Una buona alimentazione non può prescindere da una buona pratica sportiva. Noi ne siamo convinti e come regione abbiamo fatto molte cose importanti. L'ultima in ordine di tempo è un accordo di programma con il CONI firmato nei mesi scorsi, che ci ha permesso di mettere a disposizione nel triennio 14, 15 e 16 20 milioni di euro per l'impiantistica, 16 milioni e 4 milioni per la pratica sportiva. È un impegno importante di Regione Lombardia, a cui si somma poi quel progetto di realizzare lì, proprio nell'area Expo, dopo l'Expo, una grande città dello sport. C'è la manifestazione di interesse del Milan per lo stadio. Oggi chiederò, anzi ho già chiesto, ma lo confermerò a Giovanni Malagò, di dirci come CONI, chi meglio del CONI può farlo, quali impianti sportivi il CONI vorrebbe a Milano, per Milano e per la Lombardia, attorno al nuovo stadio di Expo. Eh sì, insomma, questo via libera sostanzialmente è arrivato e direi che proprio le necessità principali sono piscina olimpica e stadio del ghiaccio, no? Per colmare due carenze strutturali storiche di Milano. Ebbene, dicevamo dei ritardi di Expo, in effetti anche l'affrontare il tema delle connessioni dell'esposizione universale allo sport, ebbene affrontarlo solo ora, questo sì è un ritardo strutturale dell'Expo che forse avrebbe potuto centrare prima questo legame strategico. Il tempo corre rapidamente, ce n'è pochissimo per provare a colmare anche questo ritardo culturale, ma bisogna provarci, come sottolinea sempre al nostro microfono Claudio Barbaro, il presidente di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane. In Italia c'è un vizio abbastanza diffuso, che è quello, almeno per quello che riguarda lo sport, di conferire maggior impulso a questa importante materia sociale attraverso delle capacità di rinnovo infrastrutturale delle attività sportive facendo seguito ai grandi eventi. Non dovrebbe essere così, però diciamo approfittiamo almeno di quello che passa al convento. Noi a Roma siamo ancora fermi alle Olimpiadi del 60, però comunque se dovessimo fare un paragone con Milano possiamo tranquillamente dire che Roma da questo punto di vista sotto il profilo impiantistico sta messa meglio. E allora cosa ci aspettiamo noi da un grande evento di questa portata? Che almeno successivamente allo svolgimento dell'Expo qualcosa possa andare in maniera decisa verso la ristrutturazione dell'impiantistica sportiva milanese, non solo facendo riferimento a quello che si è sentito dire oggi, ossia una semplice manifestazione di intenti da parte del Milan per quello che riguarda la costruzione del nuovo stadio. Maroni ha parlato di una cittadina dello sport, saremmo ben lieti di poter far prendere corpo a questa ipotesi e ci auguriamo che da oggi qualcosa in merito possa uscire fuori in maniera decisa. Da ristrutturare c'è anche la cultura sportiva italiana, proprio gli ultimi grandi eventi ce lo ricordano, perché torniamo da Olimpiadi e Paralimpiadi invernali con un bilancio davvero misero. Da questo punto di vista l'Expo, che pone sul come piatto forte proprio quello di salute, alimentazione e benessere, forse allo sport dovrebbe porgere più di un gancio. Proprio, ma l'Expo andrà, almeno ci auguriamo, che per quello che attiene la sfera generale, a produrre ricadute economiche e di immagine importanti per il nostro paese. Se le dinamiche di crescita dello sport estemporanee, frammentarie, tutto quello che si vuole, non si riescono a mettere in sintonia e entrare a regime, a sistema con l'Expo, evidentemente in Italia sotto il profilo culturale c'è qualcosa che non quadra, perché in tutti i paesi più evoluti sotto il profilo democratico lo sport è un mezzo di coesione sociale, in Italia non lo è, in Italia pensiamo soltanto alle medaglie. Allora approfittiamo di questa opportunità che ci viene concessa dall'Expo per cercare di capire come questi eventi possano andare in una direzione ben precisa, che è quello dell'aumento della cultura sportiva. Le perplessità permangono, siamo qui apposta per cercare di sconfiggerle. E allora speriamo davvero che Expo 2015 sappia allontanare anche queste perplessità legate al suo legame con lo sport. Il tempo forse non ce n'è molto, ma gli strumenti sì, quelli davvero ci sono. Intanto anche per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Spazio ora a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.